Mantenere il tuo motore in ottime condizioni. Così per un po' non vedrai il tuo meccanico. Scopri di più su esso.com. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Alla Cybertronics nel New Jersey, l'essere artificiale ha raggiunto la sua forma più elevata. L'universalmente adottato Mecca, la base per centinaia di modelli al servizio della razza umana, in tutti i molteplici aspetti della vita quotidiana. Ma non abbiamo alcun motivo per congratularci con noi stessi. Ma che cosa abbiamo ottenuto? Un giocattolo sensoriale. Io ritengo che il mio lavoro sulla demarcazione del percorso degli impulsi in un singolo neurone può metterci in grado di costruire un Mecca di ordine qualitativamente diverso. Io propongo di costruire un robot capace di amare. Avete appena ascoltato una clip di AI, oppure AI, il film del 2001 diretto da Steven Spielberg, che racconta di una intelligenza artificiale talmente potente da poter governare robot che non solo provano emozioni, ma che praticamente sono indistinguibili dagli esseri umani e in tutto, tranne per il fatto di essere degli schiavi che possono essere buttati via in qualunque momento. Da qui il fiume di emotività che caratterizza il film, anche perché il protagonista è un bambino governato dall'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale non è e non sarà mai niente di tutto questo. Purtroppo il nome, poi parleremo anche del nome, porta fuori strada, e in realtà l'intelligenza artificiale è un'altra cosa, non è altro che una capacità di calcolo molto potente e molto elevata, in grado di applicare più velocemente, più efficacemente e contemporaneamente algoritmi di calcolo che algoritmi di calcolo che l'uomo impiegherebbe mesi ad applicare o non riuscirebbe ad applicare. Quindi è una potenza di calcolo e una complessità di calcolo. Oggi ne parliamo perché un tema importante è che l'intelligenza artificiale, definita come io ho detto, quindi non ci sarà il bambino robot, scordatevi tanta mitologia, ecco, l'intelligenza artificiale sta arrivando in modo potente nelle fabbriche e questo vuol dire appunto capacità di calcolo. E ne parliamo con Stefano Venturi, che è l'amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise in Italia, azienda che si è focalizzata sui server e che sta lavorando proprio per portare maggiore capacità di calcolo vicino agli impianti di produzione. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho detto bene, dottor Venturi? Ma sicuramente abbiamo di fronte a noi delle grandi sfide. Le sfide sono analizzare, noi come genere umano, analizzare tutta la mole di dati che ci arriva da tanti fenomeni, che sono anche le Internet of Things, ma sono anche tanti altri dati che arrivano sempre di più, perché i sensori parlano, si collegano in rete, noi stessi diventiamo dei sensori e quindi siamo sommersi dai dati. Da questi dati noi possiamo ricavare tantissime informazioni, un po' come quando guardiamo il cielo stellato, ah che belle le stelle, poi in realtà ci sono le galassie, si possono riconoscere tante cose. Ecco, fare intelligenza artificiale, analisi di questi dati con intelligenza artificiale e i big data analytics, perché bisogna stare molto attenti a non confondere le due cose, vanno molto a braccetto le due cose, ci permetterà di fare cose assolutamente impensabili, non solo di fare più veloce le cose, ma di far cose che altrimenti prima non potevamo fare. Comunque il tema delle fabbriche è che il produttore di pezzi, penso per esempio un'azienda di cui abbiamo parlato l'anno scorso, la Phoenix, che fa stampi che sono uno diversi dall'altro, si trova ad avere a che fare con quantità pazzesche di dati, di terabytes, perché tutto è interconnesso, e l'unico modo per scavare dentro quei dati, che non potrebbero essere immaginati, analizzati tutti, ecco, l'unico modo di scavare dentro a quei dati è l'intelligenza artificiale, giusto? Assolutamente, io direi intelligenza artificiale e big data analytics messi assieme ci permettono di fare cosa? Di analizzarli, vedere cose che altrimenti i nostri occhi non possono vedere, ma soprattutto di farle adesso in questo momento, perché il tema importante è correlare gli eventi mentre avvengono o addirittura prevedere alcuni eventi che si stanno per verificare. Quindi un grandissimo ruolo di tutti questi strumenti, tipo intelligenza artificiale e Big Data Analytics messi assieme, ci permettono di fare le cose adesso, in questo momento, prendere decisioni nel momento giusto, a volte anche prima che avvenga un determinato evento che può essere positivo o negativo. Ecco, Hewlett Packard Enterprise ha appena annunciato un'alleanza con ABB, Asea Brown Boveri, il grande colosso della manifattura svizzero-svedese, per portare l'intelligenza artificiale nelle fabbriche. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta? Sì, questa alleanza è importantissima, perché noi dalla nostra parte mettiamo la capacità proprio di correlazione di una massa enorme di dati. Noi stiamo reinventando il modo con cui vengono fatti i computer, creando questi nuovi computer che sono memory centric. Poi ci arriviamo, stiamo, ecco, sull'alleanza, aggiungendo l'intelligenza artificiale. Ora, l'alleanza cosa fa? Sì, mette assieme le due nostre competenze, la ABB competenza di far funzionare una fabbrica e quindi di capire come raccogliere i dati, e noi la capacità di analizzarli in tempo reale a costi accettabili, perché questa è l'altra cosa importante, vanno fatti a costi assolutamente accettabili. Ah, per certo, il modello perché di business. Altrimenti rischi che spendi di più per analizzare i dati. Bravissimo. Che per far funzionare la fabbrica. Esattamente, questo è un tema non secondario, perché al di là dell'aspetto teorico, posso fare di tutto con l'intelligenza artificiale, sì, ma a che costi? Quindi noi come industria dobbiamo cercare di fare cose che prima non si potevano fare, quindi scoprire eventi, correlazioni che prima non si vedevano, ma in più vanno fatte a bassi costi. Per fare questo dobbiamo lavorare in alleanza, cioè ognuno fa il proprio mestiere, e in più inventare nuove tecnologie, nuove piattaforme. Ecco, sull'alleanza tra HPE e ABB e sul fatto che per le stesse ragioni ABB si è anche alleata con Microsoft, sentite qua una scheda. L'intelligenza artificiale entra inesorabilmente nelle fabbriche di tutto il mondo. Il motivo è semplice. Non esiste altro modo per analizzare in modo utile e a costo accettabile la spaventosa massa di dati generata dall'interconnessione di macchinari e oggetti. Non a caso, la società di ricerche IDC prevede che la spesa mondiale destinata all'Internet of Things arriverà nel 2021 a 1.400 miliardi di dollari, partendo dagli 800 miliardi attesi per il 2017. Gli investimenti maggiori riguardano aree come produzione industriale, trasporti e utility. A ufficializzare questo dato di fatto interviene anche l'alleanza fra tre multinazionali che impongono le loro tecnologie a molta parte delle aziende produttive del globo terracqueo. Hewlett Packard Enterprise, leader nei servizi e nei sistemi hardware di interconnessione, ABB, leader nei software e nei sistemi di gestione specificamente industriali, Microsoft, leader nei software e detentrice della piattaforma Azure. In realtà, ad essere formalizzata è la partnership tra HPE e ABB. Ma tutte e due sono a loro volta alleate con Microsoft, e inoltre la partnership HPE-ABB si avvale di strumenti Microsoft Azure. Va inoltre ricordato che la società svizzero-svedese ABB è una delle tre multinazionali a imporre gli standard industriali a tutto il mondo, insieme e in concorrenza con l'americana General Electric e la tedesca Siemens. Questa alleanza tra due leader globali è senza precedenti in termini di varietà e profondità e costituirà una rivoluzione per il progresso dell'Industrial Internet of Things, ha affermato Meg Whitman, CEO di HPE. Insieme con ABB disegneremo un futuro digitale per l'industria, dove tutto funziona all'unisono, dotando le macchine con l'intelligenza necessaria per poter collaborare, permettendo agli impianti di adattarsi flessibilmente alle variazioni della domanda e permettendo alle supply chain globali di reagire istantaneamente agli incidenti. Questa partnership darà vita a interessanti opportunità di business per i nostri clienti congiunti. Per offrire ai clienti una reale esperienza end-to-end, la partnership ABB-HPE comprenderà attività congiunte relative a innovazione, sviluppo, go-to-market e assistenza. Ecco, rieccoci in linea con Stefano Venturi. Senta, ma tutta questa intelligenza artificiale nelle fabbriche, secondo lei, che conseguenze potrà avere sull'occupazione? Allora, ovviamente tanti si spaventano perché qualcuno con un'intelligenza in qualche modo anche artificiale fa cose che prima venivano fatte dagli umani. La verità, come da sempre nel mondo dell'innovazione, nel mondo della innovazione industriale, si creano dei nuovi posti di lavoro. Quindi il tema è quanto velocemente un paese sa riconvertire i propri cittadini, perché chi prima faceva un mestiere adesso ne dovrà fare un altro. Ricordiamoci che è vero, l'intelligenza artificiale fa risparmiare tantissime ore di lavoro, ma crea nuove professionalità, la necessità di fare le cose in modo diverso, e quindi richiede nuovi professionisti. Quindi noi dobbiamo da un lato adeguare la scuola che fornisca dei giovani che siano in grado di capire queste cose, ma soprattutto il tema cruciale è la riformazione dei lavoratori esistenti. Se facciamo questo, abbiamo tantissime ricerche di mercato che ci dicono che il risultato è sempre positivo. Per quanto si cancellino posti di lavoro, se ne creano comunque tanti di più. C'è chi si spinge da, non so, se ne cancella 1,8, se ne creano 2,3, chi dice che addirittura per ogni posto di lavoro se ne creano più di 3 posti di lavoro. Comunque il saldo è sempre positivo, il tema è riconvertire. Ecco, tra l'altro è anche molto rischioso non adottare l'automazione, non adottare l'intelligenza artificiale, non lavorare sulla propria capacità di calcolo e di analisi, perché le aziende che non lo faranno chiuderanno e saranno quelle a far fuori il massimo numero di persone, non coloro che si sono adattati alle nuove tecnologie, anzi che le hanno cavalcate. Comunque, riprendiamo a parlarne dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presento Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi parliamo di intelligenza artificiale nelle fabbriche e ne parliamo con Stefano Venturi, che è il CEO di HPE Italia. Voi lavorate molto sulla capacità di calcolo, dottor Venturi, e in effetti l'intelligenza artificiale altro non è che capacità di computazionale molto elevata e di eseguire algoritmi complessi. La vostra tesi è che la capacità di calcolo deve essere, voi la chiamate edge, vicina all'azienda, vicina alla fabbrica, dentro la fabbrica, e deve essere distribuita. Quindi in pratica voi immaginate un mondo con dei server dappertutto, giusto? Sì, i server cambieranno faccia, cambieranno vesti. Noi stiamo progettando i server del futuro, abbiamo già delle prime macchine che sono già sul mercato, dove il futuro sono delle macchine molto più semplici dal punto di vista delle architetture, dove la memoria è al centro, non è più la CPU al centro, quindi la memoria, quindi i dati. Questo dà delle straordinarie prestazioni a parità di hardware speso, a parità di energia spesa, quindi permette di mettere più in periferia tutta l'intelligenza di cui abbiamo quindi bisogno. Server ad alte prestazioni ma molto distribuiti. Per esempio, voi avete presentato un case history con una compagnia che fa crociere, e sulle navi da crociera, per abilitare il tutto, ci saranno server ovunque, così come ci sarà un server su ciascuna auto, giusto? Esattamente. Esattamente, i server, o meglio la capacità computazionale, va portata in periferia, perché i dati che verranno sempre di più raccolti da questi sensori di ogni genere, perché sono anche le videocamere, sono dei sensori, quindi qualsiasi cosa va preelaborata e va fatta il più possibile un'elaborazione profonda ai margini, e anche la sicurezza va gestita ai margini. Quindi abbiamo portato anche l'intelligenza artificiale al cosiddetto edge, quindi ai margini della rete, per fare un cosiddetto pattugliamento di cyber security fatto con intelligenza artificiale, che dà un livello di sicurezza altrimenti irraggiungibile coi metodi tradizionali. Perché il tema è che l'hacker, oppure l'errore computazionale, può inserirsi più facilmente nella periferia. Cioè, se io voglio fare un attacco informatico, lo faccio nelle fabbriche distribuite sul territorio, lo faccio su ogni singola auto, non lo faccio dove vengono elaborati i dati centralmente, perché lì c'è da supporre che abbiano investito di più in difesa, giusto? Esatto, i sistemi tradizionali partono dall'assunto che un sensore è innocuo e quindi ai dati che vengono dai sensori si dà massima priorità, anche perché vanno elaborati velocemente e quindi non vanno fatti tanti check. Il problema è che è proprio dai canali verso i sensori che arrivano gli attacchi più insidiosi. Per questo noi abbiamo messo intelligenza artificiale sulle aggregazioni di sensoristica che stanno in periferia, e questo dà ovviamente un livello di sicurezza assolutamente irraggiungibile altrimenti. Senta, una volta Hewlett Packard era come l'IBM, faceva tutto, faceva i PC, faceva le stampanti, faceva i grandi server, faceva i servizi informatici, faceva il software. Adesso invece, per cavalcare questo paradigma dell'edge computing e del mondo dei big data, voi vi siete diventati specialisti quasi solo nei server, giusto? Server non solo, cioè specialisti in tutto ciò che c'è nel data center e in tutto ciò che c'è nelle reti di aggregazione. Noi oggi nella parte anche sia del data center e dei server dove siamo market leader. Ma soprattutto la grande area di investimenti è quella del cosiddetto edge nel nostro gergo, cioè tutto quello che sta nella rete in periferia che aggrega questi sensori, quindi sia gli utenti sia la sensoristica. Quindi noi abbiamo pensato che in un momento di salto tecnologico come quello che stiamo affrontando, chi si specializza vince, e quindi senta, abbiamo deciso, sempre parlando di intelligenza artificiale di dati, nelle quindi fabbriche, data center e reti, bisognerebbe sviluppare il concetto di deep learning, che è una cosa molto importante per i vostri sistemi. Sì, assolutamente, il deep learning è un po' l'ultima frontiera, appunto, che unisce intelligenza artificiale e capacità di elaborazione di big data. Hewlett Packard ha proprio appena lanciato l'Apollo 6000, questa nuova piattaforma di deep learning che è progettata per offrire delle prestazioni, una scalabilità senza precedenti, con un ingombro estremamente ridotto. Il deep learning, proprio per capire un po' che cos'è, è una specializzazione dell'apprendimento automatico e recentemente ha dato prova di prestazioni enormemente superiori rispetto a quelle con gli approcci automatici dell'apprendimento automatico tradizionale. Quindi il deep learning si avvale di una combinazione tra reti neurali, artificiali, multilivello, addestramento con utilizzo di grandi volumi di dati, e qui il big data unito all'intelligenza artificiale che vengono elaborati, ed ispirato alle più recenti scoperte sul comportamento del cervello umano. Questo approccio è diventato così efficace che inizia in alcuni casi a superare le capacità umane in molti campi, esempio riconoscimento visivo e vocale e l'elaborazione del linguaggio naturale. Quindi il deep learning è una nuovissima materia che unisce appunto intelligenza artificiale, big data analytics, che è ancora tutta da scoprire, e noi lo facciamo con delle infrastrutture specializzate a bassissimo impatto energetico e soprattutto di costo di infrastruttura. E tutto questo lo mettete poi a disposizione delle imprese. Ecco, io volevo aprire una parentesi per ricordare la bella intervista che il filosofo di Oxford, Luciano Floridi, ha rilasciato a Massimo Sideri sull'economia del Corriere del 1° dicembre. Ecco, riferendosi all'intelligenza artificiale, che è il tema di quell'intervista, ha detto: l'espressione intelligenza artificiale è fuorviante, sarebbe stato meglio non coniarla. Fu una bella trovata di John McCarthy nel 1955, servita a mobilitare enormi quantità di denaro. Ecco, probabilmente queste cose sono appunto fuorvianti. Invece, siccome mi è capitato di visitare un data center importante negli ultimi giorni, quello della Elmec a Varese, io ho trovato che questi data center sembrano un po' delle fabbriche, no Venturi? Infatti sono delle vere e proprie fabbriche digitali. I data center sono delle factory che, per quanto sembra che siano vuoti, perché poi uno dice ma un data center non c'è nessuno che gira, beh, anche nelle fabbriche moderne automatizzate è così, però poi attorno ci sono centinaia e centinaia di professionalità che lavorano per configurarli, installarli, farli evolvere, configurare tutti i vari sistemi che ne permettono il funzionamento. Devono essere alimentati con l'energia, raffrescati, ci vogliono sistemi antincendio, di sicurezza. Le fabbriche del futuro sono anche i data center, e nel nostro paese dobbiamo trovare il modo di attirare maggiormente investimenti per aprire data center qui in Italia invece che all'estero. Perché è anche importante che i data center stiano sul territorio, quindi la manifattura tende a coincidere con la capacità computazionale, sono la stessa cosa, tant'è che si parla non più di meccanica ed elettronica ma di meccatronica, giusto? Esattamente, già da anni la meccatronica è una realtà, adesso con l'intelligenza artificiale e la Big Data Analytics si spinge a livelli veramente impensabili fino a poco tempo fa. E non è un caso che proprio la Cina, che compete con noi su vari fronti, stia competendo, tra l'altro in posizione vincente in questo momento, sul fronte dei supercomputer. Dal punto di vista del supercomputing, il primo paese al mondo oggi non è gli Stati Uniti o l'Europa, è la Cina. Prima la Cina, seconda gli Stati Uniti e terza l'Europa. La battaglia commerciale ed economica mondiale si gioca anche su questi fattori. Che ne dice lei? È vero, è verissimo. La Cina avanti ne ha fatto un programma di Stato. Non dimentichiamo però che negli Stati Uniti e negli altri paesi sono molto di più le aziende, tantissime, migliaia di aziende, di grandi aziende, che hanno dei supercomputer. Quindi la capacità computazionale del sistema rimane assolutamente maggiore negli Stati Uniti e nei vari paesi europei. Ah, certo. Però Stati Uniti e Cina primeggiano, forse noi in Europa siamo un po' indietro, che dice lei? Sicuramente non esiste un programma europeo chiaro che stia veramente facendo muovere i paesi a fare investimenti in questo senso, però le singole aziende, le singole grandi aziende stanno investendo tantissimo nel supercomputing. Certamente, siamo in un mondo che cambia, ma la nostra convinzione viene ribadita dal nostro payoff. Viva le fabbriche, viva l'acciaio, viva i robot! Buon sabato a tutti e grazie a Stefano Venturi.